bella così, non l'hai vista mai, non è ma parra segnata stanca sotto coperte questa luna ianca. Tu che non piagni e chiagnere me fai, tu stanotte tu stai, voglia te. Of all.